Cari fratelli, in queste catechesi di mercoledì parliamo su personalità della Chiesa nascente. Mercoledì scorso ho parlato sul Papa Clemente I, terzo successore di San Pietro. Oggi parliamo su Sant'Ignazio, che era il terzo vescovo di Antiochia dal 70 al 107, data del suo martirio. In quel tempo Roma, Alessandria e Antiochia erano le tre grandi metropoli dell'impero romano, e il Concilio di Nicea parla anche di tre primati, quello di Roma, ma anche Alessandria e Antiochia partecipano in certo senso a un primato. E Sant'Ignazio era vescovo di Antiochia, che oggi si trova in Turchia. Qui in Antiochia, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli, sorse una comunità cristiana fiorente. Primo vescovo, così ci dice la tradizione, era proprio San Pietro, e lì per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Esebio di Cesarea, uno storico dell'inizio del IV secolo, dedica un intero capitolo della sua storia ecclesiastica alla vita e all'opera letteraria di Ignazio, e scrive: dalla Siria Ignazio fu mandato a Roma per essere gettato in pasto alle belve a causa della testimonianza da lui resa a Cristo. Compiendo il suo viaggio attraverso l'Asia sotto la custodia severa delle guardie, Ignazio stesso parla di 10 leopardi che lo guardavano. Dico sotto la custodia severa delle guardie, nelle singole città dove sostava, con prediche e ammonizioni, andava rinsaldando le chiese. Soprattutto esortava, col calore più vivo, di guardarsi dalle eresie che allora cominciavano a pullulare, e raccomandava di non staccarsi dalla tradizione apostolica. Così Eusebio. La prima tappa del viaggio di Ignazio verso il martirio fu la città di Smirne, dove era vescovo San Policarpo, discepolo di San Giovanni. Qui a Smirne, Sant'Ignazio scrisse 4 lettere, rispettivamente alle chiese di Efeso, di Magnesia, di Tralli e di Roma. Adesso ritorniamo al testo di Eusebio, dice: partito da Smirne, Ignazio venne a Troade e di là spedì nuove lettere, 2 alle chiese di Filadelfia e di Smirne e 1 al vescovo Policarpo. Eusebio completa così l'elenco delle lettere che sono venute a noi dalla Chiesa del primo secolo come un prezioso tesoro. Leggendo questi testi si sente la freschezza della fede della generazione che aveva ancora conosciuto gli apostoli. Si sente anche in queste lettere l'ardore e l'amore di un santo. Finalmente, da Troade, il martire giunse a Roma, dove nell'anfiteatro Flavio venne dato in pasto alle bestie feroci. Nessun padre della Chiesa ha espresso con l'intensità di Ignazio l'anelito all'unione con Cristo e alla vita in Lui. Perciò abbiamo letto il Vangelo sulla vigna che Gesù è, secondo il Vangelo di Giovanni. In realtà confluiscono in Ignazio 2 correnti spirituali: quella di Paolo, tutta tesa all'unione con Cristo, e quella di Giovanni, concentrata sulla vita in Lui.

rivolgo a voi l'augurio che conclude la lettera di Ignazio ai cristiani di Tralli, dove scrive: amatevi l'un l'altro con cuore non diviso. Il mio spirito si offre in sacrificio per voi, non solo ora, ma anche quando avrà raggiunto Dio. In Cristo possiate essere trovati senza macchia. E preghiamo che il Signore ci aiuti di trovare questa unità e di trovare questa unità che ci aiuti di essere finalmente trovati senza macchia, perché è l'amore che purifica le anime. Grazie.